promesses pleines, des flaccides minces, une soupe future. Il fragore toglie il fiato che hai salvato, tutte le capriole e poi non ti orienti più, con lo sguardo capta la linea delle bolle, chiudi i tuoi occhi e segui e respira, respira. Rimorsi non ne ho, tempo per tornare no, sabbia addosso ho, e tutto ciò che io mi porterò, da come te, odio che io mi porterò, sa quello che resta di un perché, sì, quando non lo so, un tempo ha avuto un senso, ora di sicuro no, un ricordo è quanto porterò, io davanti a te, che dentro porterò, tutto ciò che dentro porterò, che dentro porterò.